Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Il lavoro di assistenza e sorveglianza di mia madre mi era preziosissimo. Anche se avessi pagato 20 spie per vigilare su Milady, non sarei stato servito così a puntino come dalla mia ottima madre, con le sue cure assidue e disinteressate. Dormiva con le chiavi di casa sotto il cuscino e aveva sempre tutto sotto gli occhi. Seguiva come un'ombra la contessa in tutti i suoi spostamenti e faceva in modo di sapere, da mane a sera, ogni cosa che Milady faceva. Se passeggiava in giardino, un occhio vigile sorvegliava il cancello. Se invece decideva di uscire in carrozza, mia madre la accompagnava. E due uomini con la mia livrea le cavalcavano a fianco per assicurarsi che non le capitasse nulla di male. Benché lei si opponesse, chiedendo di potersene rimanere in camera sua, con il suo tetro mutismo, io ritenevo indispensabile che ci presentassimo insieme nel nostro tiro a sei davanti alla chiesa tutte le domeniche. Ed esigevo che lei venisse con me ai balli tenuti in occasione delle corse di cavalli. Almeno, quando l'assenza di quei maledetti persecutori degli ufficiali giudiziari mi dava via libera. Questo per smentire tutti quei maligni che mi dicevano ben deciso a tenere mia moglie sotto chiave. Il fatto è che conoscevo la sua leggerezza. Mi accorgevo che in lei un'insensata avversione per me e per la mia famiglia aveva cominciato a sostituirsi a un affetto che forse era stato altrettanto irragionevole, perciò dovevo stare in guardia perché lei non tagliasse la corda. Se mi avesse lasciato, il giorno dopo sarei stato un uomo rovinato. Questo, e mia madre lo sapeva, ci costringeva a tenerla sotto strettissima sorveglianza. Ma quanto a imprigionarla, respingo con disprezzo questa accusa. Ogni uomo imprigiona sua moglie, chi più chi meno. Il mondo sarebbe in un bello stato se alle donne fosse permesso di andare e venire di casa al loro capriccio. Nel sorvegliare mia moglie, Lady Lyndon, non facevo che esercitare quella legittima autorità che conferisce a ogni marito il diritto di essere onorato e obbedito. Ma le astuzie femminili sono tali e tante che, a dispetto di tutte le mie precauzioni nel sorvegliarla, Milady probabilmente sarebbe riuscita lo stesso a prendere il volo se io non avessi avuto come alleata una persona scaltra almeno quanto lei. C'è un proverbio che dice che il modo migliore per prendere un ladro è mettergliene un altro alle calcagna. E il modo migliore per avere la meglio su una donna è appunto di incaricare un altro membro del suo astuto sesso per tenerla d'occhio. C'era da credere che Lady Lyndon, pedinata dovunque, costretta a lasciarmi esaminare tutte le sue lettere e sopravvedere a tutte le sue conoscenze, messa a vivere ben lontano dalla sua famiglia in un angolo remoto d'Irlanda, non avesse la minima possibilità di comunicare con i suoi alleati o di rendere pubblici i torti che le erano stati fatti, così si compiaceva di dire. E invece, per qualche tempo, mantenne una corrispondenza proprio sotto il mio naso e riuscì anche a organizzare abilmente un complotto per farla fuggire da casa mia, nel modo che ora vi dirò. Aveva sempre avuto una passione irrefrenabile per i bei vestiti. Quando le passavano per la testa grilli di questo genere, non le si negava mai nulla. Io non risparmiavo un soldo pur di farla felice, e fra i miei debiti ci sono conti di modiste per parecchie migliaia di sterline. Perciò, tra casa nostra e Dublino, c'era un continuo via vai di scatoloni con ogni sorta di abiti, cappelli, falpalà e gale, tutti scelti a suo capriccio. Con i pacchi arrivavano lettere della modista in risposta alle numerose ordinazioni di Milady, e per qualche tempo tutta questa corrispondenza passò per le mie mani senza che io sospettassi nulla. Eppure, proprio in quelle carte, con il semplice espediente di un po' di inchiostro simpatico, era contenuto per intero l'epistolario privato di sua signoria. E sa il cielo con quali accuse contro di me. Perché, come ho detto, passò del tempo prima che io scoprissi il trucco. L'abilità di mia madre scoprì che la mia signora moglie, ogni volta che decideva di scrivere alla sua modista, si faceva prima dare dei limoni per farsi la sua solita bibita, o così diceva. Quando il fatto mi venne riferito, cominciai a riflettere. Alla fine provai a esporre alla fiamma uno dei fogli, e quel piano infame venne tutto intero alla luce. Darò qui un esempio delle missive mostruosamente ingegnose di quella sciagurata. A grandi lettere, con le righe molto spaziate, era scritta una serie di indicazioni per la sua sarta. Venivano elencati tutti gli articoli di vestiario di cui Milady aveva bisogno, le particolarità di taglio, i materiali prescelti, eccetera. In questo modo compilava lunghe liste, andando a capo a ogni nuova voce, in modo da avere più spazio per narrare nei dettagli tutte le mie crudeltà e i terribili torti che lei subiva. Tra quelle righe, insomma, teneva il suo diario di prigionia. E uno sfornatore di romanzi di allora avrebbe fatto fortuna solo se avesse potuto procurarsene una copia e pubblicarla, intitolandola L'adorabile prigioniera, ovvero Il feroce marito, o con qualche altro nome altrettanto avvincente e assurdo. Il diario si presentava più o meno così. Lunedì. Ieri mi hanno costretta ad andare in chiesa. Quell'odiosa, mostruosa, volgare dragonessa di mia suocera, vestita di seta gialla e nastri rossi, aveva il posto d'onore nella carrozza. Mr. Lindon cavalcava a fianco sul cavallo, che non ha mai pagato al capitano Handelstone. Quell'infame ipocrita mi ha accompagnato al banco col cappello in mano e il volto sorridente, e dopo il servizio divino mi ha baciato la mano mentre risalivo in carrozza e ha accarezzato il mio levriero italiano. Tutto perché le poche persone presenti potessero vederlo. Di sera mi ha fatto scendere a preparare il tè ai suoi compagni, tre quarti dei quali, lui compreso, erano ubriachi come al solito. Hanno dipinto di nero la faccia del pastore, quando il reverendo, arrivato alla settima bottiglia, era sprofondato nel suo consueto torpore. Poi l'hanno legato sulla cavalla grigia con la faccia rivolta verso la coda. La dragonessa ha letto tutti i doveri dell'uomo, tutta la sera, fino all'ora di andare a letto. Allora mi ha accompagnato nei miei appartamenti, mi ha chiusa a chiave dentro e se n'è andata a prendersi cura del suo abominevole figlio. Sono convinta che lo adori per la sua malvagità, come Sicorace faceva con Calibano. Avreste dovuto vedere la furia di mia madre quando le lessi questo brano. Beh, è vero comunque che mi ha sempre dato gusto combinare scherzi. Devo ammettere che quello alle spalle del pastore, descritto qui sopra, ne è un ottimo esempio, e che di solito sceglievo con cura per ripeterli a mia madre tutti i complimenti che Lady Lindon le dedicava. La dragonessa. Era questo il nome di mia madre in quella raffinata corrispondenza, ma qualche volta riceveva il titolo di strega irlandese. Quanto a me, ero denominato il mio carceriere, il mio tiranno, il cupo spirito che è riuscito a dominarmi, e così via. Soprannomi che suonavano sempre come un omaggio al mio potere, per quanto non fossero certo elogi del mio carattere amabile. Ecco un altro estratto del suo diario di prigionia, dove si vedrà che Milady, pur dichiarandosi tanto indifferente a certe mie pratiche, aveva uno sguardo femminilmente acuto ed era capace di ingelosirsi come qualsiasi altra donna. Mercoledì. Oggi fanno 2 anni dal giorno in cui l'ultima speranza, l'ultima gioia della mia vita, mi fu tolta. E il mio caro bambino fu chiamato al cielo. Ha forse raggiunto lassù quel suo fratello che io tanto trascurai? lasciandolo crescere al mio fianco senza curarmene, finché la tirannia del mostro a cui io sono unita non lo spinse all'esilio e forse alla morte. Oppure il ragazzo vive ancora, come a volte il mio cuore teneramente crede. Charles Ballindon, vieni in aiuto della tua indegna e sventurata madre, che riconosce le sue colpe, la sua freddezza verso di te, e ora sconta amaramente il suo errore. Ma non può essere vivo. Sono fuori di me. La mia sola speranza è riposta in voi, cugino mio, voi che un tempo pensai di poter chiamare con un titolo ancora più affettuoso, mio caro George Poynings. Oh, siate il mio paladino e il mio protettore, siate lo spirito profondamente cavalleresco che siete sempre stato, e strappatemi alla schiavitù del vil fellone che mi tiene prigioniera. Strappatemi a lui e a Sicorace, l'ignobile strega irlandese, sua madre. Seguono qui alcuni versi di quelli che sua signoria componeva a migliaia. Vi si paragona a Sabra dei Sette Campioni e implora il suo George di liberarla dal drago, cioè da mia madre. Ometto i versi e proseguo. Anche al mio povero bimbo, che perì immaturamente in questo stesso tristissimo giorno, il tiranno che mi domina aveva insegnato a disprezzarmi e a versarmi. Fu disobbedendo ai miei ordini, alle mie suppliche, che si avviò sul cammino fatale. Quali sofferenze, quali umiliazioni ho dovuto sopportare da allora in poi. Sono prigioniera nella mia stessa dimora. Dovrei temere il veleno, se non fosse che quel miserabile ha un sordido interesse a mantenermi in vita, perché la mia morte segnerebbe la sua rovina. Ma se appena oso muovermi, la mia odiosa, deforme, volgare carceriera, quell'orribile irlandese, mi segue a ogni passo. Di notte mi chiudono a chiave in camera, come un malvivente. Mi permettono di uscire solo quando mi viene ordinato di comparire davanti al mio signore, dare ordini a me, per presenziare alle orge della sua allegra brigata e per udire la sua ributtante conversazione mentre scivola nella disgustosa demenza del vino. Ha abbandonato persino l'apparenza della fedeltà, lui che giurava che io sola potevo attrarlo, affascinarlo, e adesso mi porta fin sotto gli occhi le sue volgarissime amanti, e ha preteso che io riconoscessi come erede delle mie proprietà il figlio che ha avuto da un'altra. No, non mi piegherò mai. Tu e tu soltanto, mio George, mio fedele amico, sarai l'erede del patrimonio dei Lindon. Perché il fato non mi ha unito a te, invece che a quest'uomo odioso che mi tiene in pugno? Perché il fato non ha reso felice la povera Calista? Le lettere continuavano così, foglio dopo foglio, nella calligrafia più microscopica e contorta che ci sia, e io lascio giudicare al lettore imparziale se l'autrice di questi documenti non dovesse essere la creatura più sciocca e vana che sia mai vissuta, e se non avesse un gran bisogno di venire accudita. Potrei ricopiare chilometri di rapsodie dirette a Lord George Poynings, la sua vecchia fiamma. Gli si rivolgeva con i nomi più affettuosi, implorandolo di trovare un rifugio dai suoi oppressori. Ma il lettore si stancherebbe a leggere tutte quelle pagine, quanto io a copiarle. La verità è che questa sfortunata signora aveva una spontanea inclinazione a scrivere molto più di quanto realmente intendesse dire. Stava sempre a sfogliare romanzi e altra spazzatura, si immedesimava in personaggi di fantasia, prendeva il volo dietro a tutti gli eroismi e i sentimentalismi, e pur avendo meno cuore di qualsiasi altra donna che io abbia mai conosciuto, mostrava chiaramente una violentissima tendenza a innamorarsi. Scriveva sempre come se fosse avvolta nelle fiamme della passione. Conservo ancora oggi un'elegia per il suo cagnolino da salotto, il brano più commosso e patetico che lei abbia mai scritto. E poi delle tenerissime note di rimprovero. A Betty, la sua cameriera favorita, a mia madre, che le teneva a casa. Ogni nota era stata scritta dopo una delle loro liti e a un'altra mezza dozzina di conoscenze. A ciascuna si rivolgeva come alla migliore amica del mondo, per dimenticarla immediatamente, non appena le veniva un altro sghiribizzo. Quanto al suo amore per i figli, il passo citato poco fa basterà a dimostrare in che misura lei fosse capace di veri sentimenti materni. La frase stessa in cui ricorda la morte di uno di loro, di fatto tradisce il suo egoismo e dà sfogo al suo fiele contro di me. Vorrebbe richiamare l'altro figlio dalla tomba, ma soltanto perché questi potrebbe recarle un vantaggio personale. Ammettiamo che io abbia davvero trattato severamente questa donna, tenendola lontana dagli adulatori che avrebbero seminato zizzania tra di noi e rinchiudendola dove non poteva combinare guai. Chi può darmi torto? Se c'era una donna che meritava una camicia di forza, era proprio Milady Lyndon. Nella mia vita ho visto incatenare, rapare a zero e buttare tra la paglia gente che non aveva commesso la metà delle pazzie di questa creatura stupida, vanitosa e infatuata. Mia madre si infuriò tanto per le accuse contro me e lei contenute nelle lettere che mi fu difficilissimo trattenerla dal rivelare a Lady Lyndon che le avevamo scoperte. Beh, naturalmente, il mio obiettivo era di tenerla all'oscuro del fatto che conoscevamo le sue intenzioni. Infatti, ero molto curioso di sapere dove andavano a parare e a che estremo di simulazione lei sarebbe arrivata. Con l'andar del tempo, le lettere divennero sempre più interessanti, proprio come si dice di un romanzo. Descrivevano il trattamento che le riservavo, con certe immagini che vi avrebbero fatto venire il crepacuore. Non so se ci fosse qualche mostruosità di cui non mi accusava. Non so se esistessero sofferenze e digiuni di cui non si dichiarasse vittima. Tutto questo, mentre a vederla dal di fuori, viveva tranquillamente a Castle Lindol, ben pasciuta e ben contenta. I romanzi e la sua vanità le avevano stravolto il cervello. Non potevo dirle una parola forte e ne meritava migliaia ogni giorno, ve lo dico io, senza che asserisse che la torturavo. E se mia madre le muoveva un rimprovero, si faceva venire un attacco isterico, per poi dire che quella degnissima vecchia signora ne era stata la causa. Alla fine cominciò a minacciare di uccidersi. Io non pensavo certo a togliere di torno forbici e coltelli e le permettevo di servirsi liberamente presso la sua solita bottega di farmacista. Conoscevo benissimo il suo carattere e sapevo che tra tutti i cristiani non c'era donna meno incline di lei ad attentare alla propria preziosissima vita. Eppure, queste minacce, evidentemente, conseguirono il loro effetto presso coloro a cui erano destinate, perché i pacchi della modista cominciarono a infittirsi e i conti che le venivano inviati contenevano promesse di un prossimo soccorso. Il cavalleresco Lord George Poynings stava venendo a portare in salvo sua cugina e intanto fu tanto cortese da dire che sperava di liberare questa sua cara cugina dalle grinfie della più feroce canaglia che avesse mai disonorato l'umanità con la sua infamia e che, non appena lei fosse stata libera, bisognava dare subito inizio alle pratiche per ottenere un divorzio motivato dalla mia crudeltà e da maltrattamenti di ogni sorta. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini,